113. Crostini diversi. Il pane che meglio si presta per questi crostini è quello bianco fine, in forma, all'uso inglese. Non avendone, prendete pane di un giorno, con molta midolla, e riducetelo a fette quadre, grosse un centimetro, che spalmerete con seguenti composti ridotti, come ad un unguento. Crostini di caviale. Tanto caviale e tanto burro mescolati insieme, e se il caviale è duro, lavorateli un poco al fuoco con un mestolo a moderato calore. Se invece del burro vorrete servirvi di olio, aggiungete qualche goccia d'agro di limone e immedesimate bene i tre ingredienti. Crostini di acciughe. Lavate le acciughe e togliete loro la spina e le lische, poi tritatele con la lunetta, aggiungete burro in proporzione e schiacciate il composto con la lama di un coltello da tavola per ridurlo una pasta omogenea. Crostini di caviale, acciughe e burro. Mi servirei delle seguenti proporzioni, salvo a modificarle secondo il gusto. Burro grammi 60, caviale grammi 40, acciughe grammi 20, fate un miscuglio di tutto e lavoratelo per ridurlo fine e liscio. 114. Sandwich. Possono servir di principio alla colazione o di accompagnamento a una tazza di tè. Prendete pane finissimo di un giorno o pane di segale, levategli la corteccia e tagliatelo a fettine grosse mezzo centimetro e all'incirca lunghe 6 e larghe 4. Spalmatele di burro fresco da una sola parte e appiccicatele insieme mettendovi fra mezzo una fetta sottile o di prosciutto cotto grasso e magro o di lingua salata.